vengo al mondo già da piccolo ero un casinista. Già avevo il desiderio di essere primo nella lista. Crescevo a vista d'occhio, coccolato e mai viziato. Se mia mamma mi insegnavi cos'è giusto o sbagliato. Non so se ho mai imparato, ma vi stimo perché non credo sia stato facile avere a che far con me. Testa dura come il marmo, ma ciò nonostante, quando ho avuto bisogno c'eravate in ogni istante. Regali tanti, ma sicuramente il più bello è stato il giorno in cui mi ha partorito mio fratello. In casa un gran macello, ci insegnavi a stare al mondo. Tuo figlio preferito sicuramente il secondo. Non prendertela dai, in fondo lo sai pure te. Nelle liti, nel dubbio, la ragione mai a me. Sì, ma lo sai che non ti porto rancore. Nonostante tutti questi scazzi, per me sei il migliore. Voglio dirti che non posso stare senza di te. Non dovrei manco pensarci, ma non riesco perché hai ancora tanto da dire, hai ancora tanto da dare. Noi siamo qui che ti aspettiamo, pa, non ci puoi lasciare. Voglio dirti che non posso stare senza di te. Non dovrei manco pensarci, ma non riesco perché hai ancora tanto da dire, hai ancora tanto da dare. Noi siamo qui che ti aspettiamo, pa, ce la devi fare. Io e Ale più grandi iniziavamo a capire che tra te e mamma un giorno doveva finire. Io mi sentivo morire, non riuscivo a realizzare. Senza mio papà in casa come cazzo posso fare? Mami che sta male, la notte non dorme. Io ti odiavo così tanto, non volevo seguire le tue orme. Troppi pensieri, andare avanti così non puoi. Tornavi a casa e scaricavi la tua rabbia a noi. E lo sai, ti ricordi che quei giorni lontani abbiamo rischiato più volte di arrivare alle mani. Io sto male ogni volta che ci penso. Guardo Ale, lui è diverso, soffre ma resta in silenzio. Col tempo piano piano abbiamo di nuovo legato quel rapporto che sembrava perso, ora è recuperato. E credimi papà, sei troppo importante per me. Se ti aspetto non posso stare senza di te. Voglio dirti che non posso stare senza di te. Non dovrei manco pensarci, ma non riesco perché hai ancora tanto da dire, hai ancora tanto da dare. Noi siamo qui che ti aspettiamo, pa, non ci puoi lasciare. Voglio dirti che non posso stare senza di te. Non dovrei manco pensarci, ma non riesco perché hai ancora tanto da dire, hai ancora tanto da dare. Noi siamo qui che ti aspettiamo, pa, ce la devi fare. Sì. Tu e mamma ormai su due strade diverse. Io e Ale nella vita iniziavamo con le scoperte. Ne abbiamo sofferte, ma ci siamo sempre rialzati. Con una famiglia come voi siamo strafortunati. Anche se separati siete i migliori genitori. Ora tu sei all'ospedale tra infermiere e dottori. Malori di cuore, non passano le ore. Io sono convintissimo che mio papà non muore. Sei troppo forte, io vorrei esserlo così tanto. Tu ne hai passate tante, hai pure sconfitto il cancro. E quanto io ho bisogno di un padre che mi esalti. Non posso immaginare di giocare senza te sugli spalti. E vinciti per tutta la partita. Sai che in questi giorni ho ripensato a tutta la mia vita. Non puoi lasciarmi qui, papà, ti voglio troppo bene. Questo pezzo è per te, forza, lo sentiremo insieme. Voglio dirti che non posso stare senza di te. Non dovrei manco pensarci, ma non riesco perché hai ancora tanto da dire, hai ancora tanto da dare. Noi siamo qui che ti aspettiamo, pa, non ci puoi lasciare. Voglio dirti che non posso stare senza di te. Non dovrei manco pensarci, ma non riesco perché hai ancora tanto da dire, hai ancora tanto da dare. Noi siamo qui che ti aspettiamo, pa, ce la devi fare.